a divorare il mio tempo e il mio spazio, ma sono convinto che nessuno di voi potrà mai togliermi gli odori delle birrerie di Praga o del tè e del narghilè alle porte del deserto tunisino, come il pessimo caffè francese e i pesanti fritti messinesi o londinesi. Nessuno di voi potrà mai strapparmi dalle narici l'estate dei boschi corsi o campani, né il freddo inverno in un vino in laguna a Venezia o in una taverna a Barcellona come Budapest. Saprete riconoscere l'odore del kebab che con una succulenta nube tossica si estende su tutta l'Europa affamata, da Budapest a Perugia e poi più giù, est e ovest, finalmente uniti. Interni in pelle. A me, la terra, mia sorella, e quel po' di cibo che si trova.